Ben ritrovato Giovanni Cioni. Buongiorno, buongiorno a voi. Con te per parlare del tuo documentario Viaggio a Montevideo, che sarà in programmazione all'Apollo 11 qui a Roma il prossimo 13 febbraio. Giovanni, lo raccontiamo brevemente? Viaggio a Montevideo è difficile da raccontare, è un viaggio che è ispirato ai canti orfici di Dino Campana. E non so se sono stato a Montevideo o se non ci sono stato, ma l'idea del film era di confrontarmi, non di fare un film su Campana, ma di partire dalla poesia di Campana, dall'aspetto quasi cinematografico della poesia di Campana per farne un'esperienza di cinema. Che è un film partito da suggestioni di sopralluoghi fatti nelle valli della Valle d'Aosta, e da lì si parte a Montevideo, a Bruxelles, dove ho vissuto. In un certo senso è un film che parla anche di questo, dei ritorni. Io ho cominciato a pensare a fare un film sui canti orfici, perché sono tornato a vivere nel Mugello, e il Mugello sono i monti dove Dino Campana scrisse appunto i canti orfici. In un certo senso il fatto di farlo non lì dove ho pensato farlo, cioè nel Mugello, ma di farlo nelle Alpi della Val d'Aosta, permetteva magari che il film fosse anche meno letterale, no? Meno illustrativo della poesia, cioè che prendessi questa forma della poesia di Campana fatta di ripetizioni, di sovrapposizioni di tempi e di spazi, come qualcosa che mi permettesse di lavorarlo da un punto di vista cinematografico. Ok. Senti Giovanni, che rapporto c'è secondo te tra la poesia di Campana e il cinema? C'è un rapporto che nell'utilizzazione delle ripetizioni, dei tempi, nel senso della visione, nel senso anche che ogni immagine rimanda a un'altra immagine. Cioè, Dino Campana ha scritto i canti orfici in un periodo in cui il cinema cominciava a diventare un linguaggio e ne era anche affascinato, ne parla, nella notte. Delle vedute, del panorama scheletrico del mondo, e in un certo senso c'è come una forma, un lavoro anche di condensazione di immagini, di raccordi cinematografici nella sua poesia. E è questo che mi interessava, ed è in questo che mi ritrovavo. Al di là della figura, perché in Italia spesso si parla di Campana come c'è la leggenda del poeta maledetto, si parla molto poco della sua poesia, e a me questa poesia mi ispirava per lavorarci, senza che fosse un'illustrazione della poesia di Campana. Cioè, quando dicevo prima che il fatto di non farlo nell'Appennino, ma di farlo in un luogo che non ha niente a che vedere con Campana, permetteva che la cosa non fosse illustrativa. Però nello stesso tempo rimanda, ma magari rimanda a Campana, nella sua poetica, senza avere, cioè, con questo non voglio avere la pretensione di dire che io ho fatto i miei canti orfici, non è questo. Io ho fatto un film confrontandomi con un tipo di linguaggio e con il mio linguaggio e con gli incontri che ne sono nati. All'inizio non pensavo nemmeno a farne un film. All'inizio pensavo a lavorare su dei frammenti, lavorandoli quasi in termini musicali, e poi da questi frammenti, da queste immagini, per esempio il fatto di mescolare immagini fisse, immagini in movimento, per me è qualcosa che mandava all'uso del tempo anche nella poesia di Campana, per dire. Senti, cosa apprezzi, cosa ami dei canti orfici? Amo in particolare il sogno di Anika, viaggio dove sei l'impressione di essere sulle onde e che in realtà rimani sempre sulle onde, non sai se all'arrivo a Montevideo non c'è, c'è l'avvistamento della costa. Amo la Pampa, quando Dino Campana in piedi sul treno in mezzo alla Pampa dice io sono qui, senza l'ombra di nessun dio. Amo questa idea di una poesia dove lui scriveva l'esperienza del mondo e anche il suo rapporto con un mondo che poi che lo rifiutava, senza cadere nel melodramma, no? Amo quando lui parla del bambino e che di un bambino, c'è la visione di un bambino e questo bambino era forse il ricordo di lui stesso, Campana, come un cadavere. Amo queste, cioè per me è un poeta immenso. E spesso, troppo spesso si è ridotto alla la sua vicenda, ma questo è un altro discorso, ripeto, il mio non era un film su Campana, è confrontarmi con quello che Campana mi stimola da un punto di vista e mi permetteva di fare da un punto di vista cinematografico. Okay. Un viaggio, ho tanti viaggi, di parlare della vita, di parlare di amici scomparsi. Senti, che voce hai scelto per declamare i suoi versi? Non volevo nessuna voce e dunque ho utilizzato dei testi. Ok. Come delle didascalie. Ok. Che intervengono insieme a dei frammenti di testi miei, come perché il film è anche, come dire, un giornale di bordo è un po' come un giornale di bordo comunque. Dunque ho utilizzato didascalie. Ok. Ho chiesto a due persone che non sono attori di leggere alcuni frammenti delle Tranquilla notte, però il problema con la lettura della poesia per me può essere quello delle anche di dare troppa intenzionalità, no? Alla una poesia. Non so, io sempre ho molta difficoltà con, cioè anche Carmelo Bene che declama i canti orfici, che declama la chimera, è immenso, però per me è più immensa la parola scritta, perché è qualcosa che mi immagino, no? Che mi devo immaginare. Comunque, e alle persone che avevo chiesto di leggere, ho chiesto di leggere in maniera più neutra possibile, come se lo leggessero, come se lo scoprissero in quel momento, no? Come se lo leggessero, se lo sussurrassero a bassa voce. Okay. Senti, ci lasci i riferimenti web per saperne di più? Allora, c'è una pagina su Facebook, Viaggio a Montevideo, c'è il mio sito www.giovanniccioni.org, sul quale c'è anche il trailer, un trailer del film, e questi i riferimenti. Benissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Viaggio a Montevideo di Giovanni Cioni all'Apollo 11 qui a Roma il prossimo 13 febbraio. Giovanni, un abbraccio, a risentirci presto. Un abbraccio a voi. Ciao. Grazie mille.